Europa 24. Deficit italiano al 3% sia nel 2012 che nel 2013 e debito in aumento dal 127 al 132,6%. Così i dati di Eurostat questa mattina, che comunica la prima notifica 2014 dei governi. Naturalmente tutti gli approfondimenti su questi dati europei nel corso dei nostri programmi. E ora il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov accusa gli Stati Uniti di guidare le scelte della nuova autorità filo-occidentale di Kiev nella crisi ovviamente dell'Ucraina. Non c'è ragione, ha detto Lavrov in un'intervista a Russia Today, per non credere che gli americani stiano conducendo lo spettacolo. Intanto la crisi ad est sollecita gravi preoccupazioni degli esponenti orientali del Parlamento europeo. Oggi ne sentiamo due dalla Romania, Adina Ioana Valean dei Liberali e Ioan Mircea invece del gruppo dei Socialisti Democratici. Sentiamo servizio. Mentre dall'americano Kerry arrivano le minacce di sanzioni rafforzate nei confronti di Mosca se non ci sarà un reale progresso nell'applicazione dell'accordo di Ginevra, la vicenda ucraina infiamma anche il dibattito interno all'Europarlamento fra parlamentari provenienti dai paesi dell'est e quelli che arrivano invece dai paesi occidentali. Perché il piatto ucraino, è chiaro, ha un sapore diverso se assaggiato a Parigi e Roma oppure a Riga e Varsavia. Lo esprime bene la rumena Adina Ioana Valean del gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa, che ha usato parole chiare contro la timidezza europea. Not all of us are willing to sell our souls for Russian gas, Mr. President. Il presidente Scholz parla degli interessi comuni fra Unione Europea e Russia. Non tutti noi, però, signor Presidente, vogliamo vendere la nostra anima per il gas russo. È facile, prosegue, per chi non ha vissuto sotto la Russia, ma per la gente della Romania, della Polonia e della Germania dell'Est, morta combattendo per libertà e democrazia, è diverso. Questi sono i valori per i quali anche la popolazione ucraina sta combattendo. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Altro tema caldo del dibattito politico, le polemiche sui costi, 300.000 euro al giorno, della missione Mare Nostrum, quella decisa dal governo italiano per salvare gli immigrati che tentano di arrivare nel nostro paese. Elisabetta Fiorito ne ha parlato con il vicepresidente della Commissione europea e membro di Forza Italia, Antonio Tajani. Così com'è costa veramente tanto Mare Nostrum, però il governo deve anche tenere conto di tutti i soldi che stanno arrivando dalla Unione Europea. Arrivano tra il 2014 e il 2020 500 milioni di euro all'Italia, vale a dire 80 milioni di euro ogni anno. È il secondo beneficiario dell'intera Unione Europea, 60 milioni per la polizia di frontiera, dopo Lampedusa sono stati dati 30 milioni per l'emergenza e in più per ogni rifugiato che va in un altro paese vengono dati 6.000 euro, quindi un aiuto costante al paese. Ma a Bruxelles, a Strasburgo, si percepisce che la politica italiana è leggermente diversa da quella della Grecia o della Spagna, che applicano un respingimento tout court, mentre l'Italia salva vite in mare? Ah, questo è molto chiaro, anche ecco perché sono arrivati anche altri fondi europei. Non è un caso che ci sono dei satelliti europei, è stato questo il mio impegno, una promessa che ho fatto e ho mantenuto, che aiutano a controllare tutto ciò che accade nell'area del Mediterraneo, compreso il controllo delle coste del nord dell'Africa. Infine una notizia che arriva dal Portogallo. Il Portogallo tornerà per la prima volta dal 2011 sul mercato del debito a lungo termine con un'emissione di bond a 10 anni, con un obiettivo di raccolta compreso tra i 500 e i 750 milioni di euro. Nel recente passato il paese, che da 3 anni beneficia di un programma di aiuti da parte della comunità internazionale, dicevamo nel recente passato, il Portogallo si è limitato a finanziarsi con aste sindacate presso un gruppo ristretto di banche. Dunque una notizia, si spera, anche di disgelo e ripresa anche nei mercati appunto dell'estremo ovest dell'Unione Europea. Con questo è tutto, vi ricordo l'appuntamento con l'Europa questa sera e con Europa 24 come sempre domani intorno alle 14. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.